Sì, senz'altro, abbiamo visto molto movimento sul mercato in questo ambito, diciamo da 6 mesi a questa parte. Un settore che in America andava già forte, più che altro spinto da quelle che sono le esigenze legali in America di avere il telefonino che ti può dare anche la localizzazione per un fattore di proprio di sicurezza. In Europa le cose invece non sono diciamo richieste dal punto di vista legale e amministrativo, invece sono spinte da questi servizi, come dicevi tu, sia da parte degli operatori che da parte dei produttori, questo interesse, perché si pensa che si possa effettivamente fare dei soldi in sostanza con servizi dove io con il mio telefonino posso trovarmi il cinema più vicino, piuttosto che poi sapere che film vengono proiettati, quanto mi costa il biglietto e addirittura comprarmi il biglietto. Nokia dice di essere il più grande produttore oramai non solo di telefoni, oramai non solo di fotocamere e di lettori MP3, ma anche di sistemi di navigazione satellitare. L'azienda finlandese ha presentato una serie di prodotti che proprio puntano sulla geolocalizzazione. Quindi un trend sposato da una grande azienda. Che cosa sta facendo in particolare Nokia da questo punto di vista? Nokia è stato il primo produttore di telefoni a puntare su questa funzionalità, prima dal punto di vista di hardware, quindi l'integrazione del sistema GPS nei telefonini, e poi quando hanno lanciato il loro nuovo il nuovo ombrello di servizi chiamato Ovi, hanno incominciato anche con le mappe, hanno fatto delle acquisizioni importanti, prima Gate5 che è un'azienda tedesca e poi Navtech per aiutarli proprio in questo settore. Offrono dei servizi di navigazione sia per la macchina che pedonale, dove si ha la possibilità appunto di navigare. Hanno anche fatto cose intelligenti tipo mettere una bussola nell'ultimo dei loro telefonini, in maniera che quando io entro in un edificio e quindi perdo la copertura del sistema satellitare per la navigazione, quando riesco la bussola mi dice, è capace di dire al sistema satellitare da che parte mi sto girando io, se a sinistra o a destra. Molte volte ci si perde perché non si sa da che parte si punta e da che parte vengono date le direzioni di marcia, diciamo. Quindi queste piccole innovazioni che continuano a migliorare il servizio.